Pubblicata sulla rivista di poesia contemporanea Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sarro Giambonino, una nuova poesia di Luca Sarro Giambonino dal titolo La città. Forse sarà per come fatto sono, ma l'ho presa come benefica missione il camminar forzato presto la mattina, m'alzo all'alba quando il canta il gallo, e che mi sento meglio, davvero. Vedo la città sotto altri occhi, considero il cammino, se sia meglio passare di qua o di là, e mi godo la fresca aria del mattino. Il balzar veloce tra i rami di uno scoiattolo, il merlo impavido che attraversa becchettando la via, e cani e gatti mi fanno compagnia. Dolce è la mia città la mattina, di una dolcezza inusitata.